I tre musicisti. C'erano una volta tre musicisti. Avevano imparato dallo stesso maestro e quando il maestro disse loro che avevano imparato tutto ciò che poteva insegnargli, i tre amici decisero di andare in giro per il mondo e tentare la fortuna. Staremo insieme. Abbiamo studiato insieme, quindi suoneremo insieme. Sì, fratello, è quello che faremo. Chissà che cosa ci riserverà il mondo. I tre musicisti viaggiarono in paesi diversi e si guadagnarono da vivere. A quel punto arrivarono in un villaggio dove suonarono meravigliosamente alla fiera del villaggio. Quindi si sedettero con gli abitanti del villaggio a parlare e chiacchierare, condividendo storie dei loro viaggi. Gli abitanti del villaggio condivisero con loro una strana storia. Non lontano da qui, nel bosco, c'è un castello. Dicono che si è incantato. Le porte sono aperte a chiunque voglia entrare e il tavolo è pieno dei cibi più raffinati per chiunque li voglia mangiare. C'è anche una stanza piena di due grandi tesori che chiunque può prendere. Ma dicono che gli spiriti maligni vivono nel castello e chiunque entri ne esce più morto che vivo. Qualcuno di voi è mai andato al castello? Ovviamente no. Non vogliamo mica rischiare qualcosa di così pericoloso. Quella notte, quando i tre musicisti erano soli nella loro stanza, non poterono discutere di altro se non del castello incantato. Voglio vederlo. Immagina se tutto ciò che dicevano fosse vero. Il cibo più raffinato, il tesoro più grande. Sarebbe un peccato essere arrivati fino a qui e non tentare la fortuna. La vita è stata gentile con noi finora. Forse sarà gentile anche con noi nel castello. Quindi, chi andrà per primo? Io dico che dovrebbe andare il più giovane per primo e così via. Questa è una buona idea. Quindi prima lui, poi io e poi tu. Ognuno di noi dovrà rimanere nel castello per un giorno intero e una notte intera. D'accordo. Quindi, la mattina dopo, il trompettista salutò i suoi amici e partì con una melodia nel suo cuore. Raggiunse il castello a mezzogiorno. Era enorme e bellissimo. Non appena toccò i cancelli, si aprirono. E così fecero anche le porte delle sale. Il trombettista esplorò le splendide stanze e le enormi sale, fino a quando non arrivò in cucina. Era come se uomini e donne invisibili stessero tagliando, cucinando e servendo, mentre l'aroma di deliziosi zuppe, verdure e dessert riempiva il trombettista di desiderio di provare il cibo. Una mano invisibile lo condusse in un'enorme sala da pranzo, dove il tavolo era già carico di tutto il cibo che aveva visto in cucina. Il trombettista si sedette per mangiare. Ma proprio quando stava per dare un morso, un omino con la barba abbastanza lunga da raggiungere le sue scarpe entrò nel corridoio e si sedette accanto a lui. Salve, signore. Dopo di te. Si sedettero e mangiarono in silenzio. All'improvviso, il nano lasciò cadere il cucchiaio. Il trompettista si inchinò per prenderlo, quando il nano si avventò sulla sua schiena, lo bloccò e lo gettò fuori dalle porte del castello. Come osi venire qui a rubare i miei tesori? Con una faccia nera e blu, il povero trombettista tornò dai suoi compagni. Cosa ti è successo? Non andate al castello. È malvagio. Quella notte... Così, cosa dovremmo fare? Voglio andare a vedere di persona cosa succede nel castello. Ci andrò. Quindi, il giorno dopo, il batterista partì per il castello. Le porte si aprirono anche per lui. Anche lui esplorò le enormi sale e stanze. Andò in cucina. Fu condotto in sala da pranzo. E proprio mentre stava per mangiare, il nano arrivò. Come aveva fatto con il trombettista, il nano lasciò cadere il cucchiaio. Il batterista si chinò per prenderlo, il nano si avventò su di lui e lo gettò fuori dai cancelli. Il batterista tornò dai suoi compagni. Il palazzo è malvagio, non ci andare, amico! Di nuovo il nano, vero? Sì, esattamente come avevi detto! In tal caso ci andrò. Anche dopo quel che ci è successo? Non preoccupatevi, non lascerò che il nano abbia la meglio su di me. Quindi, la mattina dopo, il violinista partì per il castello. Vide le stesse identiche cose nel palazzo e si sedette a mangiare. Il nano apparve e, come al solito, lasciò cadere il cucchiaio, in modo che potesse balzare sul violinista quando si piegò per recuperarlo. Ma il violinista era pronto. Proprio mentre il nano saltò, il violinista si allontanò e afferrò il nano. Nella rissa, il medaglione attorno al collo del nano andò nella mano del violinista. Nel momento in cui il medaglione fu nella sua mano, iniziò immediatamente a sentirsi fortissimo. Il nano, invece, divenne molto debole. Ridammi il mio medaglione! No, non fin quando non mi dirai che succede in questo palazzo. Oh, se mi restituirai il mio medaglione, ti insegnerò tutti i miei poteri magici. Ne ho davvero molti. Allora, prima insegnami e poi ti restituirò il tuo medaglione. D'accordo? Bene. Quindi, il nano portò il musicista in uno strano seminterrato attraverso un passaggio così lungo che sembrava non finire mai. Proprio all'improvviso, il passaggio oscuro si aprì in una valle come nessun altro, oltre al violinista, aveva mai visto. Era chiaro che questo posto non apparteneva al nostro mondo. Il nano condusse il violinista in un fiume. Il fiume scorreva con tale vigore che era impossibile attraversarlo. Ma il nano batté la sua bacchetta sull'acqua e all'improvviso l'acqua si aprì, rivelando un percorso attraverso il quale il duo camminò e raggiunse l'altro lato. Ciò che vi era oltre era un castello, ancora più magnifico di quello da cui erano venuti. Il nano lo condusse dentro. Ogni camera del castello era piena dei più grandi tesori mai visti al mondo. E poi giunsero in una magnifica stanza con un enorme letto d'oro tempestato di pietre preziose, in cui giaceva la fanciulla più bella che ci fosse mai stata. Chi è lei? Lei è la principessa del palazzo. Dorme da 200 anni a causa di un incantesimo. Un incantesimo? Si pensava che l'incantesimo avrebbe fatto dormire la principessa e tutti i servitori del palazzo sarebbero scomparsi, in modo che l'uomo che aveva lanciato l'incantesimo potesse rubare tutti i preziosi tesori. Ma il castello era già incantato e così, quando la principessa dorme, tutti i suoi tesori rimangono bloccati dove sono. Vedendo la rabbia del nano per i tesori bloccati dove sono, il violinista si rese conto che era stato proprio il nano a lanciare l'incantesimo sulla principessa. Quindi decise di aiutarla. Come si può spezzare l'incantesimo? Che cosa? Beh, sappiamo entrambi chi ha lanciato l'incantesimo sulla principessa, giusto? Se vuoi riavere il tuo medaglione, dimmi come spezzare l'incantesimo. Oh, no! C'è una scatola sotto il cuscino della principessa. Contiene la veglia della principessa. Prendi la scatola, avvicinala agli occhi della principessa. Tocca la scatola con il medaglione. Si aprirà! E la veglia fluirà in lei. Ottimo. Dove sono? Nel vostro palazzo, Vostra Altezza. È rimasta addormentata per 200 anni. Ah, è passato tanto tempo. Volevi i miei tesori. e non ne avrà nessuno. Lascia questa terra per sempre. Ma il mio medaglione! Te lo darò quando arriveremo dall'altra parte del fiume. Fino ad allora, solo per assicurarmi che non farai alcun trucco, devo avere anche la tua bacchetta. Il nano non ebbe altra scelta che obbedire. Diede la sua bacchetta al violinista. Tutti e tre andarono al fiume. Il violinista toccò il fiume con la bacchetta e le acque si separarono. Il nano camminò lungo il corridoio e raggiunse l'altro lato. Ma il violinista e la principessa non lo seguirono. Quando il nano ebbe raggiunto l'altro lato, il violinista batté di nuovo l'acqua. Il fiume scorre come prima. Il mio medaglione! Dammi il mio medaglione! Prendilo! Ma la bacchetta la terrò io in modo che tu non possa più tornare. Così il violinista intelligente scacciò il nano e poi si rivolse alla principessa. Vostra Altezza, anch'io devo lasciarvi ora. Resta per qualche giorno. Hai salvato la mia vita, il mio regno, e ci hai riportato da un sonno eterno alla bellezza della vita. Concedimi l'onore di mostrarti il mio regno e la nostra ospitalità. Per favore, te lo chiedo. La sua terra è davvero meravigliosa e surreale. Mi piacerebbe restare un po'. Quindi il violinista rimase nel regno della principessa. Alla fine si innamorarono e vissero felici e contenti. Per quanto riguarda i compagni del violinista, il violinista li visitò di nuovo e li portò con sé. Insieme suonarono musica e intrattennero la gente del regno. Gli altri abitanti del villaggio si chiedevano dove fossero andati i musicisti e quando non tornarono, dissero del violinista che era scomparso per primo. Ah, è andato a suonare il flauto. Sì, è andato a suonare il flauto. Questo è diventato un proverbio e fino ad oggi si dice di chiunque abbia iniziato un compito dal quale non sia mai tornato.